E ciao a tutti e a tutti, ben ritrovati, ben ritrovate. Ore 20.08, qualche piccolo problema tecnico, iniziamo da cose città. Ora 6.49, 17.50 e vi ricordo che siamo in via dei Volsci. E allora finalmente trovato l'accordo tra i siti internet che si occupano di previsioni meteo, perché a partire da maggio sarà finalmente Fabio a decidere i nomi delle perturbazioni e degli anticicloni che arriveranno nella nostra penisola. Quindi niente più Caronte, niente più Cleopatra, ma Ramones e AC/DC. Allora Fabio, hai già pensato a un nome, al nome sostitutivo per l'anticiclone delle Azzorre? Stalin. Bello. Semplice ma efficace, dice tutto. Allora io vi ricordo anche il nostro contatto su Twitter, e proprio su Twitter ieri Fabio, mentre tu eri a far baldoria, una nostra ascoltatrice, per una serie di questioni che adesso non ti sto a dire quali, ha azzeccato un pezzo e tre quarti della nostra scaletta. Uno l'ha preso pieno proprio, in maniera che io non so come ha fatto a farlo. E invece l'altro ha azzeccato l'artista, quindi io ho offerto, ovviamente con i tuoi soldi che io gestisco in quanto dirigente del tuo patrimonio, e una bevuta colossale in un qualunque bar, adesso lei ci farà sapere quale e poi manderà il conto a casa tua. E lei però ha detto, dice, visto che ho vinto, lei si chiama Nima. Visto che ha vinto, io vorrei anche scegliere una canzone, magari sulla quale Fabio può introdurre anche la puntata odierna. Lei sa che tu hai un cagnolino che si chiama Phil Collins, quindi ha fatto uno più uno, e il pezzo che lei ha scelto è esattamente questo. Ecco qua, e siamo a Gia. Io mi sto dissociando. Bellissimo. Allora Fabio, dove andiamo oggi? Chitarra e da Cari. Comunque non ho salutato, ciao a tutti e ciao a tutti anche da parte mia. Andiamo sotto la pioggia, anche se qua a Roma oggi non piove. Tu, abbiamo provato una tutte. Cosa dovevi fare? Far piovere, ci ho provato. È diventato un poco nuvoloso adesso. L'aria è abbastanza chiusa, ma niente. La pioggia sembra domani mattina. Cioè, quindi c'è il sole, sono 8:10, c'è pure il sole. Lo so, non ci ho provato, ci ho messa tutta, ma non ce l'ho fatta. Niente, vai. Ho regalato una Pasqua e una Pasquetta col sole a tanti italiani, ma puntavo su martedì, ma nulla. E quindi questo è lo scherzo, cioè il gioco è nato così. Pasquetta, poche idee, poco tempo, Pasquetta, pioggia, spesso è un binomio che è andato insieme, diciamo così, è un binomio appunto. E questa Pasquetta non ha piovuto, noi puntavamo su oggi, già l'ho detto, ma non ci siamo riusciti. Ma infatti noi oggi non dovevamo andare al cinema oggi. Sì, ma Giorgio non poteva. Perché doveva lavorare? Non so se non lo fanno uscire, secondo me è la madre che non lo fa uscire. Ma non lo so, lui non ha detto nulla di questo, non ha specificato, ha detto che non poteva. Comunque Giorgio, ti aspettiamo per andare al cinema. E dai, cominciamo pioggia, cominciamo dalla fine, cominciamo dal dopo la pioggia, e anche cominciamo musicalmente dalla fine. Spesso abbiamo lasciato, chissà per quale motivo, pezzi un po' più complessi, spesso pezzi jazz alla fine della puntata. Questa volta ci apriamo col più grande di tutti, con John Coltrane. Questa ballata si chiama After the Rain, sarà pubblicata nell'aprile del 63 su un disco poco noto del catalogo Impulse di Coltrane, che si chiama Impression. Per chi lo conosce, una notazione: alla batteria non c'è Elvin Jones, ma c'è qui Roy Haynes, e non c'è nessun solo, ma un continuo scambio bellissimo, il tema ripetuto tante volte tra McCoy Tyner, il pianista, e John Coltrane al sassofono tenore. Vai Ale, buon ascolto. batteria di John Coltrane, che qua il nostro cavo funzionava solo mono, improvvisamente durante il pezzo di Coltrane è diventato stereo. Basta così, direi, possiamo... Credi alle coincidenziale? Possiamo anche chiudere. Allora, intanto io chiedo scusa al quartetto di Coltrane, ma sono costretto a parlare dopo di loro. Allora, prossimo artista, un altro di quelli che volevamo passare da un po' di tempo, non ce l'avamo mai riusciti, entra finalmente in scaletta. Parliamo di Gil Scott Heron. Esordio discografico nel 1970 con Small Talk at 105th and Lennox, album che per testi e sonorità è molto simile all'esordio omonimo dello stesso anno della Spoets, uscito qualche mese prima, quindi versi su poesie recitate accompagnate dalle sole percussioni, dalle congas. E l'album fu prodotto da Bob Till, che prese Scott Heron sotto la sua protezione. Till fu nel decennio degli anni 60 a capo della Impulse Record e quindi registrò anche tantissimi capolavori, non solo di Coltrane ma anche e soprattutto a Love Supreme, e mise per questo secondo disco di Scott Heron, dal quale abbiamo estratto I Think I'll Call It Morning, una formazione di estrazione insomma abbastanza legata al jazz. C'è Ron Carter al contrabbasso e l'amico di sempre Brian Jackson. Nel 1971 quindi esce questo secondo album che si chiama Pieces of a Man e contiene anche tra l'altro un omaggio proprio a John Coltrane, e non sarà l'unico nella carriera di Gil Scott. Una vita insomma abbastanza complessa quella di Scott Heron, morto nel 2011, nato il primo aprile, qualche giorno fa avrebbe compiuto 69 anni. Tra i vari soprannomi che gli sono stati affibbiati, quello di Bob Dylan Nero e padrino del rap, questo gli fu dato da tre ragazzetti che di rap se ne intendono, ovvero Nas, Mos Def e Chuck D. È stato uno scrittore, un poeta, oltre ovviamente che un cantante e un musicista, e anche una militanza politica piuttosto impegnata. Un artista che ha avuto la capacità di raccontare l'attualità con grande lucidità. Per chi volesse approfondire anche la vita di Scott Heron, è uscita tra l'altro in questi giorni anche una biografia per Volo Libero. In Pieces of a Man c'è la rabbia contro l'America bianca, quella che si ricorda dei neri solo quando c'è da arruolarli per il Vietnam, e c'è la voglia di rivoluzione, ma c'è anche, come nel brano che abbiamo scelto, appunto Think I'll Call It Morning, l'invito a resistere, a non farsi scoraggiare dalle ingiustizie e a non accettare le convenzioni. Recita un estratto della canzone: perché dovrei lasciare cadere le lacrime dei miei occhi quando ho visto tutto quello che c'è da vedere e so che non ha senso piangere. Lui è Gil Scott Heron, I Think I'll Call It Morning. I'm gonna take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me, yeah. Something to teach us all about being free, yeah. Be no rain. Be no rain. And I think I'll call it morning from now on. And tell myself I've got to be alone. Why should I subscribe to this world's madness, knowing that I've got to live on? I'll call it morning from now on. piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Che partenza, Fabio! Bellissimo. Non deluderci ora, il terzo pezzo. No, assolutamente non deludo, poi magari. Quello della conferma. Gil Scott Heron, per carità, poi dopo col treno. Comunque adesso ce ne andiamo proprio da un'altra parte, andiamo in Giappone e ascoltiamo. Lui si chiama Seba Jun, si chiamava anzi. Se invertendo l'ordine delle lettere, cioè leggendo da destra verso sinistra, è Nujabes, l'infant prodigio dell'hip hop giapponese. Prima ancora che in Europa si parlasse di retromania, prima ancora dell'esplosione della retromania in Europa, il sentimento di amore per il passato ha sempre caratterizzato, è sempre stato il colore della musica di Nujabes. Lui è stato adolescente durante l'esplosione della cultura glam in Giappone, lui da quella è abbastanza, è fuggito, si è rinchiuso in casa, come raccontava in qualche, nelle pochissime interviste che si trovano in rete, si chiude in casa con i vecchi vinili, soprattutto jazz, nominava Sanders, Miles Davis, John Coltrane ed altri. E, scusate, ma racconto un po' di storia perché ne vale la pena e perché in Italia non è così conosciuto poi Nujabes. Neanche appena ventenne apre un negozio di dischi, perché lui era un grande appassionato appunto di vinile e collezionava rarità. Questo negozio lo apre in una specie di grotta urbana in un quartiere di Tokyo. In poco tempo, grazie alla sua, diventa famoso per i suoi mixtape e anche per i prezzi competitivi, per le rarità che vende, e quindi questo negozio che si chiamava Guinness Records diventa un punto di ritrovo dell'underground, della Tokyo Underground. E dopo qualche anno, nel 98, fonda una sua etichetta, la Hideout Records Production, e dopo anni passati a produrre dischi di colleghi o di artisti talentosi che trovava, diciamo, per strada tra virgolette, fa finalmente il suo primo disco. Questo è siamo arrivati al 2003. Il disco si chiama Metaphorical Music, è splendido. Grazie a questo disco un regista importante di anime in Giappone che si chiama Watanabe, se lo pronuncio bene, è l'autore di Cowboy Bebop, lo contatta, lo coinvolge nel suo nuovo progetto che si chiamava Samurai Champloo, e lui farà delle cose meravigliose, farà due dischi per questa lunga serie di anime, e questo gli farà fare il passaggio successivo e soprattutto gli permetterà di fare quelle sperimentazioni che lo porteranno a Modal Soul, che è il suo capolavoro del 2005. Ma nonostante la fama crescente, lui si considerava a tutti gli effetti un producer, quindi non si concentra sulla sua attività come solista, ma appunto produce il lavoro di altri e conduceva una vita quasi ascetica, nel senso si divideva tra il suo piccolo studio di registrazione e la sua casa, che si era comprato una casa a 100 km da Tokyo lungo la costa. Proprio in questo tratto di strada, nel 2010, ad appena 36 anni compiuti poco prima, troverà a morire in un incidente stradale e niente, noi abbiamo cercato tutta la sua musica, adesso fa un po' sorridere detto così, ma se lo conoscete fa pensare, almeno a me fa pensare al calore di una casa, la pioggia vista da una finestra chiusa dentro una casa. Questa è l'atmosfera che dà me. Adesso noi abbiamo scelto un pezzo in cui la pioggia è citata, o quantomeno sono citate le nuvole, sono attese le nuvole. Si chiama Waiting for the Clouds e questa canzone è presa dal suo ultimo album in studio, che si chiama Spiritual State, un album che lui non ha visto uscire, diciamo che è stato messo insieme dai suoi collaboratori con tutto il materiale che aveva registrato, che era addirittura d'arrivo. Non è un disco suo a tutti gli effetti, magari perché comunque si tratta di un disco postumo, ma e non è bello come gli altri, ma comunque vale la pena. E questa canzone è splendida. La voce, le rime sono di Substantial, un rapper americano che lui aveva insomma convinto a lavorare con sé, e niente, la pioggia incombe e questo è New Jabez. Buon ascolto. Waiting for the clouds to part, waiting to be out of the dark. If our future's bright, then the present is an overcast, and we want it to be over fast. Let's shine. Gotta get above the clouds without an aircraft. That is without a doubt such a rare task. Finding it hard to grin or just share laughs. So you vent when that drumstick is air clash. No plan B. Plan A's weak, mentally and physically drained, and you can't sleep. Rinse a month overdue as of last week. A shadow of your future self below a vast peak. While people walk past like they can't speak, ignored, cause without rich shit, you piss poor, quit more, drowning your spirit with liquor. Victor isn't a realistic picture, but you still take a shot and develop it for the hell of it, and pray when you wait you'll be relevant. Now put your best on, you're no longer worse off. Slaving at a job you hate for. You just wanna be kissed by the sun, but your daughter's always safe in the midst of having fun. Having someone more than you when you used to having none. Disregard the chatter from knowing those who haven't won. While you're waiting for the clouds to part, waiting till we got the dark. Yeah, if our future's bright, then the present is an overcast. If we want it to be over fast, let's shine. Waiting for the clouds to part. Waiting till we got the dark. Yeah, if our future's bright, then the present is an overcast. E lo facciamo ripartire là. So stand till the new Jeff, I still your witness. And it's infinite. Hide out from yo, let's get into it. Waiting for the clouds to part. Waiting till we out of the dark. If our future's bright, then the present is an overcast, and we want it to be over fast. Let's shine. Gotta get above the clouds without an aircraft. That is without a doubt such a rare task. Finding it hard to grin or just share laughs. So you vent when that drumstick is air clash. No plan B. Plan A's weak, mentally and physically drained, and you can't sleep. Rinse a month overdue as of last week. A shadow of your future self below a vast peak. While people walk past like they can't speak, ignored, cause without rich shit, you piss poor, quit more, drowning your spirit with liquor. Victor isn't a realistic picture, but you still take a shot and develop it for the hell of it, and pray when you wait you'll be relevant. Now put your best on, you're no longer worse off. Slaving at a job you hate for. Jerk off. You just wanna be kissed by the sun, but your daughter's always safe in the midst of having fun. Having someone more than you when you used to having none. Disregard the chatter from knowing those who haven't won. While you're waiting for the clouds to part, waiting till we got the dark. Yeah, if our future's bright, then the present is an overcast. If we want it to be over fast, let's shine. Waiting for the clouds to part. Waiting till we got the dark. Yeah, if our future's bright, then the present is an overcast. If we want it to be over fast, let's shine. Let's shine. Let's shine. Let's shine. Let's shine. Parents couldn't do the job they signed up for. Gave you life, but they should've gave you much more. Won't judge, but I surely won't applaud them. They lost, said somebody gotta raise the child for them. Now you're in and out of various households. Groovy cross paths and ghetto fab. The white collar bougie who answer the call of duty. Or is it truly for a check? But regardless of their motives, they feel you own respect. You don't know how to act like you got a part in a movie, but lack direction. I knew you show love. You never had affection. Dying slow, bruh, like you got a bad infection. Ain't no band-aid for man-made self-hate. It heals slow, but I'm not sure if you'll wait. Education's the medication to get yourself yourself straight. The war within you reaches stalemate, but good gotta win in the end, or else jailways, broken soul cellmates, followed by hell's gates, fire apples, tell your weights in the belly of the beast, and it's never gonna cease till you choose to elevate. I'm ready when you are to celebrate. Till then, I'll be waiting for the clouds to part. Waiting till we out of the dark. Yeah, if our future's bright, then the present is an overpass. If we want it to be over fast, let's shine. Waiting for the clouds to part. Waiting till we out of the dark. Yeah, if our future's bright, then the present is an overpass. If we want it to be over fast, let's shine. Let's shine. Let's shine. Let's shine. Let's shine. L'abbiamo fatta ripartire perché era arrivato un trillino, anche se era arrivato un po' in ritardo, però l'abbiamo fatta partire uguale. Per Nuggiabes sì, poi tanto tu le regole te le fai come te pare, diciamo. No, ma quando, no, non è quello, però dai, i Ramones e gli U2 o Pinco Pallo, ci sta. Allora senti, restiamo un po' sulle stesse sonorità. Io l'unica cortesia che ti chiedo, ti ho preparato l'innaffiatoio, se tu puoi andare dalla signora di sopra quando partono le canzoni a fare l'effetto pioggia. Va bene, te ne sarei molto grato. Vado adesso? Aspetta che parte. Ok, allora restiamo appunto sulle stesse sonorità, però ci trasferiamo a Roma, e qui la pioggia diventa una metafora di una città, molto probabilmente appunto Roma, dove si cerca di rimanere a galla, dove si cerca di salvarsi mentre continua incessantemente a piovere. Loro sono il Colle del Fomento, gruppo attivo dal 1994, ma è solo 3 album incisi, un altro dovrebbe essere... Un altro hanno promesso solo 4-5 anni fa. Esatto, arriverà. Noi aspettiamo Danno, stiamo qui. E Anime e Ghiaccio risale al 2007 e loro sono Danno, Masito e DJ Baro, e questa è Pioggia Sempre, Colle del Fomento. Mi giù dai vermi, qua mi giochi i nervi, ma ne va di tutta la mia integrità. E poi basta con sta scusa di essere pazienti. È pioggia sempre, la senti, mi avverti. Esci per la strada e ti allerti, mentre cerco tracce dei dispersi. Mentre questa pioggia che non smette manda all'aria i miei discorsi, come pezzi sparsi in una città che stritola, dove la gente rosica e l'invidia che ti strangola dà vita ad altri scarsi. Stanno tutti quanti accomunati dal destino di fregarsi, come timo tutti pazzi. Errate qua e che s'era detto de fai mezzi, e invece c'è chi arriva e te se fotte gli spazi. Alla faccia come il culo di indignarsi, se ti incazzi o sbrocchi, e intanto tira sul palazzo a blocchi. Ghiaccio negli occhi e pioggia sempre, io sto a tocchi. Troppi tornano corrosi o con i soldi. E allora, siccome noi siamo convinti che questo trillino appartiene a Anna, e noi lo rimettiamo da capo. Cosa fa? Pioggia sempre, sono qua. Fredda

down through the wreckage and the ruins. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. And it ain't gonna rain anymore. Now my the storm has passed over me. I'm left adrift on a dead calm sea. And I'll watch you forever through the cracks in the beams, nailed across the doors of the bedrooms of my dreams. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. Gonna rain anymore. Now my baby's gone, baby's gone. Now I got no one to hold. Now I'm all alone again. It ain't too hot, but it ain't too cold. There's no sign of rain. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. And it ain't gonna rain anymore. Now my baby's gone. In studio con noi l'uomo che viene in motorino ma non ha più le chiavi. Motorino, dirà qualcun altro. Io so, no, so probabilmente lo lasciate attaccato, ma questo agli ascoltatori. Vabbè, comunque, se non interessa, in tentiamo velocemente. Fate un giro, se trovate un... No, perché già l'ho fatto una volta davanti al Tibur, poi l'ho ritrovato con tutte le chiavi e tutto il casco, però sai. Dai, sbrigati così scendi, dai. Con il termine Rainmaker, nell'ambito del mondo finanziario, ora ti do un'informazione. No, io lo so. Ah, ok. Quindi dico agli altri, a qualcuno che non lo sa, magari c'è. Si chiamano così le persone che fanno accadere le cose, cioè questo c'è, cioè chi lavora dietro le quinte, diciamo, e rende possibili gli accordi importanti. Solitamente si usa nei casi di fusioni tra grandi società, oppure quando una società ne acquisisce un'altra. Dimmi chi vuoi che faccio fallire ora. McDonald's, dai, prima in mente. Fatto. Ok. Rainmaker, l'uomo della pioggia, in questo caso tradotto in italiano, è anche il titolo di un film del 97 diretto da Francis Ford Coppola, tratto da un libro omonimo, Rainmaker di Grisham. Tutto questo lunga premessa per dire che il Rainmaker che interessa a noi è quello che canta nel 90, che è cantato nel 96 dagli Sparkly Horse. Poi dagli Sparkly Horse, in realtà Sparkly Horse era il progetto, era il nome, il moniker, come si dice, di Mark Linkous, uno dei più grandi, a mio avviso ovviamente, autori di canzoni degli ultimi 20 anni, morto suicida nel 2010. Questa, contrariamente alla musica, alle sue canzoni più note quantomeno, è un pezzo molto, diciamo, allegro, cioè un power pop, diciamo così, non è certo un pezzo malinconico, e ispiratissimo dai Big Star, e che a sua volta ricorda i Wilco che verranno pochissimo dopo. Qui la pioggia, ma proprio la stessa possibilità che piova, è si sovrappone al destino e alla fragilità umana. Questo è il tema, il senso del testo, se l'ho capito bene, e quindi Rainmaker, Spark the Horse. E dunque, messaggio in codice per il mio uomo, niente, ritorna a casa perché ha trovato le chiavi, stavano nella stanza accanto. Ma andiamo avanti. Allora, il prossimo artista. Capita. Sì, certo, ci mancherebbe. Io avevo mandato, a me raramente, io avevo mandato sì. un messaggio. Secondo me è colpa tua, mi hai distratto prima su qualche motivo. Allora, prossimo artista, loro sono i Clientil, una band formata nel 1991, messa sotto contratto dalla Philips. Tra il 91 e il 96 pubblicano però soltanto una serie di singoli che saranno poi raccolti soltanto nel 2000 per formare l'album Suburban Light. Il brano che ci ascoltiamo si chiama Reflections After Jane, Riflessioni dopo Jane. Atmosfere che ricordano, insomma, abbastanza i Velvet Underground. Il testo gioca su una doppia lettura: c'è un protagonista nella sua stanza, fuori piove, è notte, e lui guarda fuori dalla finestra e pensa a Jane che non c'è. Noi non sappiamo niente di questa Jane. Ma è andata... Sweet Jane? Non è Sweet Jane, è solo Jane. Non sappiamo se fosse dolce, amara, insomma, non sappiamo assolutamente nulla di lei. La seconda chiave di lettura, però, è quella che Jane in realtà sia una Mary Jane, ovvero il nome con cui viene anche definita la marijuana, e quindi i pensieri del protagonista sono quelli di un ragazzo un po' stonato che a tarda notte guarda la pioggia fuori dalla finestra della sua stanza e pensa, fa delle insomma, riflessioni a ruota libera. Voi leggeteci quello che volete, la canzone è molto bella, si chiama Reflections After Janes e loro sono i Client Pill. Bravo Ale. Grazie Fabio. Piovosissima proprio. Allora, quindi passiamo alla prossima canzone. Le sonorità cambiano, ma poi neanche così tanto. La prossima canzone è un singolo uscito come secondo singolo di Darklands degli scozzesi Jesus and Mary Chain, album dell'87, meno amato di Psycho Candy, non così bello ovviamente, ma comunque. Un gran bel disco, il loro sound così saturo e così pieno di feedback è quello piovoso per definizione, mi viene da dire. In questa canzone che abbiamo scelto, La pioggia è metafora d'amore, lui canta eri la pioggia nel mio giorno di sole, eri le nuvole, è la pioggia che va. È la pioggia che va, eri le nuvole nel mio cielo, eri il cielo più scuro, le tue labbra sapevano d'oro e di miele, e questo è il motivo, questo è perché ero felice quando piove, sono felice quando piove, comunque adesso se qualcuno mi denuncia ci avrebbe tutti i titoli. Quanto per farlo. Romantico. E no, non sono romantico affatto. Jesus and Mary Chain, Happy When It Rains. darkest feelings. Get up, come on, honey. Plug into her electric cool. Everything's been breaking, she cool. Talking fast, couldn't tell me something. I would shed my skin for you. Talking fast on the edge of nothing. I would break my back for you. Don't know why, don't know why. Hands they can rise and rise to the sky. And we tried so long. And we looked so good. And we lived our lives in life. But something about you felt like torno negli anni 90, per l'esattezza 1992, e esce il primo album dei Black Melon. E questo secondo singolo è sentito Honor Rain, e qui già emergono alcuni aspetti legati alla depressione che porterà poi il cantante Shannon Hoon alla morte. Morte, insomma, non si capisce bene se fu un suicidio o se fu overdose di cocaina. E morto a 28 anni nel 1995. Il disco vendette subito molto bene, spalancò al gruppo le porte del successo, anche grazie al nome che Hoon si era fatto grazie alla collaborazione con i Guns N' Roses, col suo amico Axl Rose. E lui infatti fece proprio i cori all'interno di Use Your Illusion, l'album che conteneva il mio album preferito, poi il mio album preferito, che conteneva November Rain, che avremmo potuto anche mettere, e Don't Cry. Quindi alla fine, come vedi Fabio, tutto torna. E il successo è anche arrivato per meriti del video, i non più giovanissimi se lo ricorderanno, c'era una bambina vestita da ape e che ballava il tip tap. La canzone si chiama No Rain e loro sono i Black Melon. balli bene il tip tap. No, io stavo dicendo tre a te togli il bandana. Mazza, solo tre settimane, però ha imparato. Bello, bello, bello. No, belle le scarpe pure. Sì, sì. No, anche a me piacciono molte scarpe tip tap. Poi delle volte sono un po' scomode al lavoro, una vita di tutti i giorni, ma insomma. Sì, cioè. Mi sto cercando di abituare. E cioè poi andare a bowling pure. Posso andare avanti? Scusa, sì. Senti, tu devi dare informazioni di servizio, mi sembra. Informazioni di servizio? Sì, no. No, non lo dici, no, non lo dici, no, più, no, ti vergogni? No, non lo so, è una cosa che non. Vabbè, cioè, non lo so perché mi scrivono come se mi interessasse qualcosa. Real vince. Dai, vabbè. Vabbè. Torniamo in Scozia. Ci sono delle partite di calcio? Sembra di sì. Champions League. Vai. Noi torniamo in Scozia. Torniamo in Scozia perché c'eravamo stati prima con i Jesus e Mary Chain. E loro sono i Pastors, un gruppo storico, una tarità della scena indie pop scozzese. Questo album, la canzone che abbiamo scelto è tratta da un album del 2013, il loro ritorno dopo più di 15 anni di silenzio, di assenza, quantomeno come disco. Silenzio assenso, sì. Il disco è del 2013, l'ha prodotto John McIntyre dei Tortoise, grazie, mi ha fatto perdere il filo. Parliamo sempre di pioggia, esatto. Qua non ci sono né temporali né nubifragi, nulla del genere, è una pioggia estiva del profondo nord, quella sottile continua che pensi che potrebbe durare per sempre. La canzone è davvero una piccola meraviglia, si chiama Summer Rain, The Pastors. I'm bellissima. Bello. Allora, prima di andare avanti, rispondiamo a una paranoida androida che ci scrive su Twitter chiedendosi se c'è una Purple Rain di Prince o qualche altra versione. Ne sono state fatte bellissime cover, no? Cioè, era in scaletta, ci abbiamo ragionato, però poi alla fine abbiamo scelto di tenere fuori quasi tutte le canzoni più, tra virgolette, ovvie, più a parte una. Tranne eccezioni, ho detto, a parte una. E quindi non c'è Purple Rain, non c'è Neil Young, ma veramente ho tantissimi, non c'è Morandi, ho tantissime. Non c'è Lorenzo, io. Non c'è Lorenzo, insomma, no, a parte le battute, non c'è Purple Rain. No. C'è invece, ma vicino al microfono, trova una collocazione tua, perché okay, mi sta bene a tendinite al sacco. Sto coso. Allora, 1996, Italia, Vinicio Capossella, il disco Il Ballo di San Vito. Sempre, secondo me, è il suo album più riuscito, il più potente, il più visionario, tra i musicisti, i nomi del calibro di Evan Lurie e soprattutto di Marc Ribot, il chitarrista anche di Waits, che qua già abbiamo passato almeno in un'occasione. Qui ancora il Capossella che canta Vite Comuni, che canta le giornate senza pretesa, che in bilico tra farsa e tragedia non si fa ancora chiamare maestro, non rilegge Omero e Melville, ed è insomma più autentico, per quanto possa essere autentico fino in fondo, Capossella. E questa è uno dei suoi capolavori, una delle sue canzoni più belle. Marco Rossari l'ha definita uno sketch a volo d'uccello su Milano. E in questa canzone la pioggia è un po' come fosse in un film di Altman, oppure ricorda anche Magnolia, e lega tra loro storie lontane. La canzone si chiama La pioggia di novembre. Di cielo non diversa da prima, solo freddo d'autunno e bianco color di farina. Guardo sopra il sesto piano, una goccia e poi un'altra si spiaccica in faccia, fa un rumore di sveglia che tintinna sul ferro, una gronda lontana, e viene la pioggia a lavare le macchine in fila, gli allarmi strillare, e bagna le aiuole spullate, le multe stracciate, il cielo dei bar, sulla strada di pietra segnata come panforte di taglie binari, piove sulle varesine, gira gira la giostra senza fine, cade sopra i tram che passano lenti, di ferro e di legno pazienti, con un occhio solo buoni da guardare, in fila da asciugare, dove sui pensieri dietro i fanali delle tangenziali, e bagna nel cortile gerani le nere ringhiere, le lingue straniere, i viados di gioia, la casba di Buenos Aires, le vicole accese, le borse e le spese, piove sulle campane delle pievi romane, sulle grazie e sole sopra i piedi dei bambini che ci sono ma non li vedi, sugli ortomercati, dentro i fabbricati, sopra le collette di spicci e sigarette, su uomini e su cani e piove sulle urla dei villani, sul cimitero monumentale, sugli attacchini, sugli spazzini, sulle chiese dei filippini, sui tavolini dei baracchini, sui gatti tristi dentro i cortili, sulle collane degli abusivi, sul padiglione degli infettivi, sopra i germani dentro i navigli, sui treni caldi dei pendolari, sopra i silenzi dei tassinari, sulle africane per mezze viali, sopra i parenti negli ospedali. E piove stasera anche sul chiuso della galera. Pioggia novembre a lavarmi i pensieri dal fango d'amore. E questa era Vinicione Nostra, intanto era la pioggia di novembre, non abbiamo messo Pioggia di aprile dei Cuccini pure, per esempio. Ah, giusto. Scelta. E non abbiamo messo, come mi scrivono in privato, prendendosela con te ovviamente, non abbiamo messo i Credence e Avvione per Sigarette. No, però abbiamo scelto un classico. TG2, però dai. È bellissimo. No, dai. Vabbè, non è questa la serie. Siamo lì, dai. Allora, però un classicone alla fine lo dovevamo mettere. Abbiamo scelto quello dei Doors, Riders on the Storm, ultima canzone registrata. No. Ah, sì, scusa. Cosa no? Penso che era l'ultima canzone in generale. No, l'ultima canzone registrata da Jim Morrison, eseguita soltanto un paio di volte e dal vivo. La versione che abbiamo scelto è quella che ha il solo di tastiera un pochino più corto, era la versione uscita come singolo per le radio, e era contenuta su LA Woman, ultimo album dei Doors insieme a Morrison. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed around alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Beh, entro in voce un pochino prima, così parlo sull'effetto pioggia. E allora, questa era la nostra penultima canzone. A Fabio la chiusura. Intanto grazie a tutti e a tutti quelli che sono stati all'ascolto. Noi martedì prossimo non andremo in onda, quindi ci sentiamo tra due martedì. Fabio, a te. Vabbè, due parole sull'artista con cui abbiamo scelto di chiudere gli ombrelli stasera. Joe Hisaishi, il nome d'arte di Mamoru Fujisawa, classe 1950, compositore, pianista, regista giapponese. La gran parte di voi, immagino, io per primo l'ha conosciuto perché lui ha firmato le incredibili musiche dei film di Miyazaki. La canzone che abbiamo scelto però non è presa da una colonna sonora, cioè non è presa né da Nausicaa, cioè è presa, cioè, sempre, sì, ma... scusa, da una colonna sonora, ma non è né Nausicaa né Principessa Mononoke. È sempre un gran film, è L'estate di Kikujiro, una pellicola del 99 di Kitano. E un consiglio, mi vergogno pure a darlo, ma un consiglio vero: tenete le orecchie spalancate, perché dopo i primi 4 minuti la pioggia, la canzone si chiama The Rain, cessa di cadere, si avverte proprio musicalmente, cambia la luce, cambiano gli odori e arriva l'estate. Un pezzo che sarebbe, i Sigur Rós ne potrebbero fare una gran cover. Non so perché ho detto questo, così è una buttata, me l'ho sentito. Te la sentite Galla, dai. Sì. A due martedì. A fra due martedì. Ciao.